Osman. Pezzo Osman. Osman. Beh, facile, 508. Ha ragione lui. No, ti volevo dire questa cosa, che ti ho taggato su Facebook e lì trovano, i tuoi amici trovano il link per ascoltarti dal vivo, vanno su radiocittafugico.it, cliccano su ascolta la diretta e la prima cosa che sentiranno è questa cosa qua, che è abbastanza incredibile. Buongiorno! Io che vorrei abbracciarti tutte le mie notti senza dover chiedere niente a nessuno, un abbraccio caldo d'amore. Io sono Marco Roma, buongiorno! E buongiorno a te Marco Roma. Tu devi sapere che Nemanja, tu non hai mai ascoltato Coxo Spaziale, ma a Coxo Spaziale c'è Marco Roma, anzi no, a Radio Città Fugico 103.1 non FM, solo qua, non solo, solo qua, infatti, non solo a quest'ora serale, ma lui tutti i giorni manda un vocale cantato. Ma per cui... tutte le trasmissioni o solo per Coxo Spaziale? No, per tutte le trasmissioni, secondo me lui non sa nemmeno che Coxo Spaziale è una delle poche trasmissioni che trasmette il suo vocale. Comunque se i tuoi amici croati vogliono messaggiare un vocale e minacciati di morte su WhatsApp, lo possono fare sul +39 333 180 94 94. Lo dico anche in inglese: if you want a message and send some death threats either by vocal or by text, you can do so at +39 333 180 9494. Very nice. Not bad. Io credo che la Croazia sentisse un gran bisogno di entrare in contatto con Marco Roma. Con Marco Roma soprattutto. Che lo salutiamo. Io vorrei dargli un viso a un certo punto, Marco Roma. Sì, no, in effetti io ho una piccola, cioè qui da questa parte dentro a WhatsApp ho un piccolo santino e c'è un uomo con gli occhiali e la barba. Con la barba però c'è un uomo anche da questa parte. Ma senza occhiali. Senza occhiali. Ed è il nostro Nemanja Sfianović. Cioè voi dovete sapere, voi che non sapete probabilmente chi è Nemanja Sfianović, dovete sapere che è uno dei più grandi artisti della Croazia. Che insomma, vabbè, la Croazia è un paese... Sto entrando un po' in soggezione. Sono arrivata qui, cioè, rilassata. Tu credi di avere a che fare con un collega qualsiasi dell'Accademia di Venezia, abbiamo un artista che ha esposto in biennali internazionali e ha fatto cose importantissime, tra cui mostre con questo signore qua che ogni tanto dice così. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Attenzione, mica cosa da niente, capito? Attenzione. Quindi scusa, possiamo chiedere, perché prima gli ho chiesto, io faccio parte della do voce dal pubblico ignorante, che perfetto, è qui per poter fare tutte le domande che servono per inquadrare bene la situazione. Intanto mi puoi dire bene come si dice il tuo nome? Nemanja Sfianović. Ecco, non l'hai detto così bene. Non l'ho detto così bene. No, sai come il mio croato lascia un po' a desiderare, e il mio greco anche peggio. Per cui perché non hai fatto Duolingo? Non ho fatto Duolingo oggi. Sì, perché ero impegnato perché in realtà Nemanja, ahimè, non è venuto qui a Coxo Spaziale e basta. Cioè, non è venuto qui per essere ospite a Radio Città Fugico, ma in realtà è venuto qui per essere ospite tuo e dei tuoi studenti. Per essere ospite mio e dei miei studenti all'Accademia di Belle Arti di Bologna. E salutiamo. Grazie Stefano. È stato un piacere. No, diciamo che l'ho costretto, cioè nel momento in cui l'ho chiamato a fare un workshop, il prezzo da pagare era quello di venire era ospite a Coxo Spaziale. Sta mangiando le mani tantissime. Esatto. No, gliel'ho detto mezz'ora fa, per cui insomma... giustamente Ma prima di raccontare la storia delle minacce di morte su cui subito mi hai terrorizzato, si può sapere cosa state facendo in accademia con Nemanja? Posso dire una cosa? Poi bisogna dire che io e Stefano ci conosciamo da così tanto tempo che non ci ricordiamo neanche l'anno in cui ci siamo conosciuti. Esatto. Che è un po' spaventoso, cioè che poi racconta è un po' spaventoso che vada cosa così tanto indietro nel tempo da non essere reperibile la data. Però gli ascoltatori attenti del pubblico dell'arte contemporanea, che conoscono quello che succede in giro per la città, hanno già visto un'opera di Nemanja nel 2009 alla mostra curata da Fabio Cavallucci, che si intitolava Viva l'Italia e che era alla Galleria Enrico Astuni. E io non rientro, purtroppo, però mia discolpera in pieno overseas universitario, sennò sarei stata a vedere l'opera. Certo. No, invece ho partecipato anche a una mostra prima che ha organizzato Anna De Manicor. Ah, wow. Nel 2006, credo. Con hai il On si chiamava, credo. On. Certo. Con un neon. Quindi insomma, a Bologna sei un frequentatore abituale. Ossessivo compulsivo. Ossessivo di Bologna e di Venezia. Io vorrei un po' la storia. La storia dell'arte di Nemanja. La storia dell'arte di Nemanja. Nasci nel lontano 72, quando ancora la tua nazione si chiamava Jugoslavia. Certo. Repubblica Socialista e Federativa di Jugoslavia. Hai capito? Un bel paese, grande. Grande. Unito. Con una democrazia socialista autogovernativa. Era un bel paese. E poi c'è un po' di nostalgia. Di nostalgia, diciamolo. La radio di Vabbè, del resto, voglio dire, siamo poi abbastanza una radio nostalgica. Non so, i frequentatori abituali sanno che c'è un poster di Lenin nella nostra sede abituale. In questi giorni, tra l'altro, sono lacrime che scorrono facilissime appena si dicono queste cose. Infatti, esattamente, perché so che tu e la tua famiglia, Giulia, siete state deliziate dalla vittoria di Donald Trump. Condividendo il tetto con un'americana. Abbiamo veramente festeggiato e tanto. Ma torniamo a Germania. Quindi, dal 72, Arieca. Fiume. Una volta Fiume, ora Rijeka. Mm-hmm. Una città che, diciamo, è stata sempre un po' di sinistra dal 45 fino adesso. Mm-hmm. Abbiamo un governo di PD, come il vostro PD, che non è proprio di adesso di sinistra, però comunque sinistra, almeno non è di destra quanti democratici americani. Ok, almeno questo è antifascista. Piccolo elemento. Liberal antifascista. Beh, se tu pensi che pure a Radio Città Fujiko appaiono delle piccole madonnine sul desktop del DJ, per cui insomma. Ma la madonnina ce l'abbiamo anche noi. Ah sì? Militanti queer, è comunque un po'. La madonnina ha sempre un suo perché. In effetti. Quindi, Rijeka, anni 70, dopodiché negli anni 80 sei un bambino e poi vai a fare vai a studiare arte a. Sì, allora. È cominciata così, ho provato a fare un esame di ammissione a Lubiana, non mi hanno preso, uh-huh. E sono tornato a Rijeka, ho fatto un anno di università di pedagogia indirizzo arti visive, okay. E poi ho deciso, parlando con altri colleghi che erano già andati a Venezia, di fare Accademia di Belle Arti di Venezia, pittura. E l'italiano lo sapevi già così bene? No. Ho imparato italiano con Stefano? No, con me no. Con una ragazza di Abano Terme. Di Abano Terme, tra una terma e l'altra. Che è il modo migliore per imparare una lingua. Tutti abbiamo. Esatto. Sei tu che ti ostini su Duolingo. Sai com'è. Le vie dell'amore. Devo dire che ho imparato l'inglese così, ma penso che da adesso, non credo che mia moglie sarebbe molto contenta. Non credo. Se imparassi il greco da Costas Bassanos, che salutiamo, che è stato e che era ospite la settimana scorsa. Ecco chi c'era, non riuscivamo. Esatto, abbiamo avuto un ospite greco. Quindi arriva, stavo dicendo, ad Abano Terme. Sono rimasta flashata ad Abano Terme. Questo desiderio di calore e acqua termale. No, e arrivi a Venezia e quindi la tua formazione artistica poi è lì, sì. Diciamo, sì, vabbè, un anno di università di Rijeka e poi pittura Pittura a Venezia. Con, con chi? Con Emilio Vedova? Ho cambiato. Non sei così vecchio da aver studiato con Emilio Vedova. No, allora. No, c'era. Però adesso vi spiego. Spiegaci tutto. Allora, comincio con Tiozzo, un artista che diciamo che lavorava tanto con affresco. E adesso all'Accademia c'è anche suo figlio, Vanni Tiozzo, un caro collega. Poi dopo un anno mi ero trasferito. Questa era, se mi ricordo bene, aula. Vabbè, il numero dell'aula non credo che interessi. No, no, no, guarda, tanto ai nostri ascoltatori. Poi, però i dettagli sanno, parla differenza. No, è vero, è vero. E poi ho cambiato, sono andato in ex aula di Vedova, e poi hanno costruito una un'aula nuova, per Paolo Patelli. Hai capito. Si chiamava aula F. E dopo un anno, comunque con Paolo siamo diventati alla fine tanto amici, ci frequentavamo anche dopo. Secondo me è un grande artista che ha influenzato tanto il mio lavoro dell'Accademia. E poi arriva un altro professore super speciale, Carlo Diraco, che diciamo è un simbolo adesso dell'Accademia di Venezia, con il suo atelier di pittura, da dove escono tantissimi pittori famosi anche adesso in Italia. E lui veramente ci fa cambiare il mondo e cominciamo anche, cioè, organizza delle mostre fuori dell'Accademia, ci compra dei materiali per la produzione, insomma un personaggio molto importante per me e per l'Accademia di Venezia. E sì, che ti cambia un po' il percorso. Ma io però, scusate, ribadisco, ho curiosità di sapere piano piano che direzione hai preso. Sono proprio un grande aiuto, perché ha virato potentemente a sinistra, potrei rispondere io, poi ce lo dici tu, insomma. Sì, allora in quell'epoca facevo enormi quadri astratti, materici, 6 metri per 6 metri, che erano quasi delle performance, perché non potevo farli da solo, ma sempre in 2-3 con tipo qualcuno delle stecche che ti aiutava a tenere bidoni di colori, 1, 2, 3 vai. E poi dopo ho capito che con tutto questo che ho prodotto non avevo dove portare. Ah, certo. Che questo è un problema non indifferente. È un problema non indifferente. Il dove e dell'arte. Per tantissimi anni questi quasi sono rimasti in Accademia, che nessuno poteva neanche spostarli da quanto grandi erano. Comunque, anche quella è una tecnica. Parallelamente alla pittura che facevo, mi interessava arte concettuale e mi interessava situazione sociale e politica. E subito dopo aver finito l'Accademia ho deciso di connettere queste due cose. Di usare arte come media per esprimere le mie idee, opinioni, per cercare di cambiare il mondo, no? Tra le romanticamente però anche in maniera coraggiosa. E Stefano, quindi, prima mi raccontava, a proposito di usare l'arte come veicolo politico, di questa situazione in cui ti sei trovato con delle minacce proprio legate alla presentazione di un'opera. Sì, vabbè, diciamo che nel mio in Croazia, no, sapete, c'era la situazione della guerra e abbiamo deciso di fare un passo indietro e di passare dal socialismo al capitalismo proprio più neoliberale che può essere coloniale. E beh, quello che ormai non è più neanche una scelta per tutti quanti, direi è una scelta obbligata per sì, purtroppo. Chiunque. Comunque già durante il periodo di guerra il vecchio fascismo, le forme di vecchio fascismo e il neofascismo si usavano per un'arma dei media, no? Quindi parlare del socialismo, comunismo, dell'antifascismo era già, diciamo, negli anni 90 una cosa pericolosissima. Certo. Cioè, hanno, diciamo, durante la guerra e dopo hanno, in tutta Jugoslavia hanno distrutto 3.000 monumenti dedicati ai partigiani, no? Anche opere molto importanti come opere di Bakhtić, cioè, insomma. Sì, io in qualche maniera avevo deciso di proteggere queste cose e di usare arte per, come, cioè, come media per poter parlare, perché non era facile parlare di queste cose, no? Quindi poteva essere un canale in cui, ecco, riuscire a infilare, non, quantomeno. Cioè, non solo io, ci sono anche tantissimi altri artisti che hanno deciso di mantenere insomma, sì, come il collettivo delle curatrici VKV, insomma. Vi interrompo per una dedica, una canzone. Proprio in questo momento, cioè, vai. Assolutamente. Abbiamo una canzone che è dedicata a Ico e Ale e ai piedi incrociati. Si intitola La Marelle di Birds on a Wire. Oh my God. Jogo da amarelinha na linha, não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Chissà chi di voi sa il francese e mi dice che cosa significa la marelle. La marelle, non lo so, je ne sais pas. La marelle mi ricorda una caramella. Una caramella. Una caramella. La vasca che ride, no? Gli amarelli, non sono le caramelle. Non lo so. Comunque 333-180-94-94, se ci volete dire che cosa significa la marelle, siamo contenti di scoprirlo e magari anche dalla Croazia, ai nostri ascoltatori. Invece vi devo dire una cosa, perché altrimenti poi ci dimentichiamo. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, per il terzo anno siamo a chiederti un sostegno per portare avanti un'esperienza sempre più unica nel suo genere. Che fa? dell'indipendenza e della comunità il suo punto di forza. La campagna abbonamenti di Radio Città Fujiko per la stagione 2024-2025 però porta con sé importanti novità. Non è infatti un caso se l'abbiamo ribattezzata una radio incontenibile. Il riferimento è all'espansione che a partire dai primi mesi del 2025 porteremo avanti grazie al DAB, Digital Audio Broadcasting, ovvero andiamo in digitale, fino a diventare una radio quasi regionale, ascoltabile in quasi tutta l'Emilia Romagna. Il che è appunto una bella notizia, ma anche un impegno lavorativo ed economico da non sottovalutare. Cioè, le menzioni dovranno espandersi per tutta l'Emilia Romagna, per cui Coxo Spaziale durerà 10 minuti. Già avremo 10 minuti per l'ospite e un'ora di menzioni che coprono, esatto, da Piacenza a Rimini Rizzone Cattolica. Comunque, quest'anno cosa succede? Che la campagna abbonamenti è incontenibile, perché chi si abbona con un minimo di 15 euro avrà in regalo il calendario 2025 di Radio Città Fujiko. Con le tue foto? Con le mie foto nudo. No, anzi, sul cofano della macchina. Realizzato sul cofano della macchina del direttore, a cui hanno graffiato dei gran cazzi sul cofano. E capito? Questo è solo gennaio. Questo, sì, è solo gennaio, esatto. No, dicevamo, smettiamo di fare gli sciocchini. E invece ci sono i disegni di alcuni dei più importanti fumettisti e illustratori italiani: Gianni Allegra, Claude, Lidio Contemori, Gianluca Costantini, Giorgio Franzaroli, Otto Gabos, che abbiamo avuto qui ospite. In effetti Gianluca Costantini dovremmo avere ospite qua, infatti, prima, sì, o poi. Gian Lorenzo Ingrami, Bambi Kramer, Liz Talami, Marzio Mariani, Davide Morena, Giuseppe Palumbo, Pietro Scarnera e Antonella Selva. Tutto questo lo trovate su www.radiocittafugico.it/abbonamenti, per cui abbonatevi, sganciate i 15 euro che vi arriva il calendario di Radio Città Fujiko. Associatevi, abbonatevi. E mi viene da fare così quasi. Ci sta. È una menzione più che speciale, questa. È una menzione eccezionale. Ma torniamo a Neyman Svjanovic. Possiamo. Abbiamo 1 minuto e 25 secondi per continuare il discorso sull'opera di cui stavamo parlando che ha causato così tanto. Non so se basta un minuto per aprire Intanto l'apriamo. Apriamo questa parentesi sul monumento autodifensivo che ha fatto sì che ha ricevuto minacce di morte. Cioè, sti gran cazzi. È vero, si può dire sti cazzi. Allora, si dovrebbe dire che sti gran coxi fino alle 20:29, ma ormai ho sgarrato. Cioè, avevo pensato un monumento dedicato a tutti quelli monumenti distrutti, 3000 monumenti distrutti, mm-hmm, ai partigiani. Quindi un nuovo monumento ai partigiani, che però si può difendere da solo. Parlando proprio della memoria, no? Quindi simboleggiando 2800 partigiani di tutta Jugoslavia, anche italiani, morti per liberare Rijeka, no? Fiume. Mm-hmm. Allora, il contesto per quest'opera era il Festival di Capitale di Cultura, mm-hmm, europeo, che Rijeka ha vinto nel 2016 e doveva svolgersi nel 2020. E quindi soltanto... Cioè, per colpa tua non si è svolto? No, colpa del Covid. Ah, maledetto. Ok, maledetto. Vabbè, ancora no, più si è svolto. Si è svolto parzialmente, dai. Da 600 programmi abbiamo fatto 150. Certo che la Turandot in sottofondo, sì, no, in effetti, voglio dire, è già abbastanza epica questa situazione. Piangiamo tutti insieme per la mancata capitale della cultura, Rijeka, mancata capitale della cultura 2020. Vincerò, ok, a posto. Scusate, no, ho messo Vanessa May perché prima c'era Max Ribo, ma dopo un po' mi dava un po' fastidio. Effettivamente accompagnava meglio il racconto. Ok. Quindi un monumento che si autodifende, mi piace moltissimo. Infatti. Sì, quindi monumento autodifensivo, monumento a Fiume Rossa. Oh, Vanessa May non scherza niente. Scusate. Che, un tempo teatralissimo. Un tempo teatralissimo che a questo punto. Che a questo punto ci sta. Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale, Cox spaziale. Stavamo intanto valutando quando è che ci sono state le scorse regionali. Aiutateci a ricordare le ultime elezioni regionali. Io voto per il 2019. No, ok. No, mi raccomando, non dire per chi voti. No, perché, il voto perché è segreto. Siamo in silenzio, ma... in silenzio elettorale. Solo Nemanja, essendo straniero, può dirci per chi vota, ma non importa. Cioè, tanto non può votare alle regionali Emilia-Romagna. Ma siamo ancora a Convincerò qua. Ah no, okay. Puoi farci sentire tutta quanta. No, ritorniamo alla faccenda minacce di morte a Nemanja Cvijanović in qualità di artista, in qualità che è una novità non da poco, perché qui in Italia, per esempio, non ci sono mai state minacce di morte ad un artista, da che ne sappia io, forse mi sbaglio. Ma ho l'impressione che stiamo perdendo dei pezzi per strada, ma sarebbe interessante se qualcuno ci vuole segnalare. Se qualcuno ha mai ricevuto minacce di morte per un'operazione artistica, ce lo faccia sapere. Ma c'è stato un po' di borbottio, giusto, per il dito medio di Cattelan a Piazza Affari a Milano. Però minacce di morte minacce mi di sembra morte, veramente no, eccessivo. Assolutamente no. E stavamo raccontando quindi la situazione in cui... Sì, quindi soltanto un... diciamo, quando abbiamo annunciato il programma della Capitale di Cultura, quando hanno capito che vogliamo mettere sul grattacielo di Fiume, cioè che si trova proprio all'inizio del corso di Fiume, un grattacielo di razionalista del periodo costruito nel periodo fascista nel 42. Quindi un monumento in forma di stella rossa che si difende da solo, perché nella struttura di un strato di cemento avevo inserito dei vetri rotti a punta di vetro rosso. Sono dei vetri. Sì. Visti da io che ci vedo pochissimo, quindi, pensavo fossero addirittura delle armi che sparano indietro, invece sono dei vetri. Dei vetri, appunto. Dei vetri calzone, naturalmente. Sai come quando metti i vetri per non attraversare. Quindi ogni vetro rosso per un partigiano morto, no? Ah, wow. Durante la liberazione. Cavoli. E quindi già quando hanno capito, e poi abbiamo bisogna dire anche che nel 45, dopo la liberazione, come vogliamo, okay. C'era stata una stella rossa una volta come simbolo, no? Certo. E quindi abbiamo deciso di mettere questa qua sul stesso posto, soltanto che io l'ho fatto come una stella un po' dimenticata, che un po' cade, non è più dritta come una volta. Una stella cadente. Una stella dimenticata. Dimenticata da tutti, no? Diciamo dalla memoria, dalle scuole. Comunque non l'avevi abbandonata. Non l'avevi ancora installata né costruita, che già stavi ricevendo delle minacce. Sì, perché devo spiegare anche un po' il contesto. Diciamo c'era un ministro in quell'epoca che, diciamo, durante il suo periodo Fiume ha vinto la capitale, e lui veramente appartiene a estrema destra. Okay. E c'era un'altra ministra nel momento quando abbiamo eretto la stella, che era sempre di destra, ma diciamo liberale. E già quella cosa lì, passaggio, sì. Quindi la primo momento di minaccia era su social media, ma subito giorno dopo era anche nel Parlamento. Ah, ma siamo a livelli alti, veramente qua, alti. E poi veramente dopo, quindi andamento era così: social media, Parlamento, giornali e poi strada. C'è strada, nel senso che alla fine, quando abbiamo, ci sono state delle proteste, diciamo qualche mese dopo, sì, ci sono state le proteste di estrema destra, tifoseria di destra, veterani di guerra, insomma, di destra, con serie minacce di morte hanno scritto sulle strade il mio nome, quindi volevano uccidere me e sindaco. Beh, vabbè, dai, almeno non eri solo. Però, dai. No, era abbastanza anche brutale, perché hanno usato anche fotografie di miei bimbi. Sì, questo non è particolare. Era ci ridiamo sopra, abbastanza ora, però forte, non è, sì, no, non infatti è piacevole. Io ti volevo chiedere, la tua sensazione da dentro quando è successa questa cosa è stata più sulla paura, perché insomma non è una cosa piacevole, oppure sull'idea che eri andato a toccare una cosa effettivamente urgente da toccare? Sì, diciamo, lì ho capito che questa operazione artistica si era allargata in società, anche sui tantissimi media, perché non era solo reazioni di Fiume, di Croazia, ma anche in tutta ex Jugoslavia. Diciamo, in un giorno avevo forse 400 portali di ex Jugoslavia che prima pagina c'era la guerra. Potevi mettere qualche pubblicità sul tuo sito e guadagnarci un pochino, invece ti sei dimenticato di rinnovare il sito, e il tuo sito è su Wayback Machine adesso. Poi c'era qualche reazione anche di, diciamo, nazionalismo italiano. Certo. Esuli. Sì, chiaro. Ah, anche certo. Da qua ci sono state delle reazioni. C'era su TG2 un servizio, insomma. Quello non so perché non guardo Poi sindaco di Trieste. Poi sindaco di Trieste nominava la stella a Fiume durante il giorno delle foibe, insomma. Comunque, alla fine tutti hanno cercato di prendere qualcosa da quello che... Perché comunque alla fine sempre tutti cercano di prendere qualcosa. Beh, però... E il monumento è rimasto solo per 2 settimane sopra il... Wow. Comunque è stato installato. È stato per 2 settimane e al sole tutti questi vetri rossi brillavano. Hanno brillato. Giusto? Sì, poi io in quest'anno, tipo dalle prime minacce fino alla realizzazione e anche dopo, ho raccolto... Questo stiamo parlando di che anno? 2020. 2020. Quindi ho raccolto tutto il materiale, che è tantissimo, e ho fatto un libro monografico con la Fondazione Rosa Luxemburg per... diciamo Europa sud-est di Belgrado, e col museo di Rijeka, museo di arte moderna e contemporanea, e con Obalne Gallerie, quindi un altro museo di arte di Capodistria, di Pirano. Grande. Ecco. Beh, vuol dire che infatti, comunque colpisce molto l'idea di avere un'opera d'arte che... No, il fatto che l'arte colpisca ancora il pubblico, devo dire che per noi italiani è una novità. Cioè, una novità, è una roba che non succedeva dai tempi dei tagli di Fontana, chi lo sa? Francamente non saprei nemmeno. I tagli di Fontana che hanno provocato proteste. I funerali di Togliatti, di Guttuso, non lo so, veramente, veramente non saprei da quanto tempo l'arte non tocca qualche... Sì, era stranissimo questo, perché anzi era tre volte nel Parlamento hanno discusso, poi diciamo... C'erano anche in questi mesi due elezioni del presidente. Strumentalizzazioni, eccetera, eccetera, naturalmente. Tipo, era la domanda per presidente di Repubblica durante le elezioni: stella a Fiume, sì o no? Ah, wow! Era diventato un ago della bilancia. Tac. Esatto. Stranissimo. E non hai pensato di candidarti a sindaco? autostrumentalizzare questa faccenda. Ma per strada la gente ti riconosce e dice: ah, tu sei quello della stella. Sì. Hai paura? Vabbè, il Fiume è piccolo. Sì, certo. No, non ho paura. Ok, molto bene. E dunque possiamo fare... L'angolo della menzione. Te l'ho mandata su WhatsApp. Me l'hai mandata su WhatsApp, ma ero presa dalla storia della Fiume Rossa, per cui non mi... Comincio sono... Comincio io. Martedì 12 novembre 2024, che sarebbe poi domani, alle ore 19 abbiamo Lupa in Fabula, Talk and Listening Session, un progetto di Neutopica, evento a cura di Exit, ASAP APS, per la rassegna Luccichio Sentieri tra città, selvatico e immaginazione, in collaborazione con Grabinski Point, un talk con Chiara Prodi e Edoardo Mozzanega. O Mozzanega, non so, Marta Meroni e Alex Piacentini in conversazione con Exit, che sarebbero le meravigliose Lucia Fontanella e Olivia Teglia. Ah, Olivia Teglia, conosco. Esatto, a seguire l'ascolto dell'album. Tutto questo è a Grabinski Point, in via Giuseppe Grabinski, numero 2G, a Bologna. È uno spazio meraviglioso, peraltro. Vai pure avanti perché ancora non ho trovato. Ok, vado avanti io. Mercoledì 13 novembre alle ore 10, Caterina Vigri, la santa di Bologna. Arte e mistica femminile nei chiostri, convegno di studi a cura di Irene Graffiani e Francesco Vincenti, promosso dall'Arcidiocesi di Bologna, dal Comune di Bologna, dal Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Tutto questo al Museo Civico Medievale con ingresso libero, e l'ingresso però è da via Porta di Castello 3 a Bologna. L'ho trovato, posso entrare in corsa, yeah. Martedì. Mercoledì entro in corsa, ma subito sbagliato. 13 novembre 2024, forse non c'è bisogno di dire. Dalle ore 17 inaugura nel foyer del Mambo la mostra Immagini del Number 2 Reenactment. Sarà così? Numero 2 Reenactment. Le fotografie di sì. Anna Candiani e Paola Mattioli. Mostra che sarà visibile fino al 12 gennaio del 2025. L'esposizione a cura di Valentina Rossi è una riproposizione del progetto fotografico Immagini del No, realizzato durante la campagna referendaria del 1974. Che aveva tutto. Era Immagini del No. Era Immagini del No, non il del number. Reenactment. Vabbè, ma questo è colpa mia, perché io faccio copia e incolla senza neanche leggere quello che succede. Beh, comunque è interessante. È interessante, realizzato durante la campagna referendaria del 1974, che aveva l'obiettivo di abrogare la legge istitutiva sul divorzio. Mi sembra un periodo interessante, infatti, in cui andare a osservare queste cose. Tutto questo è al Mambo, in via Dominzoni 14, a Bologna. Vado io, vai tu. Perché poi giovedì ce n'è una che tu non hai. Comunque dopo non ma qui è un trabocchetto dietro l'altro. Mercoledì 13 novembre invece alle 17.30, tanto per cambiare, si parla dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che inaugura la mostra Avere 20 anni, organizzata dal corso di fumetto e illustrazione in occasione del festival A Occhi Aperti, disegnare il contemporaneo, a cura di Amelin. La mostra, che celebra i 20 anni del corso di fumetto e illustrazione, è visitabile nell'ala Colla Marghini fino all'11 gennaio. In mostra più di 60 opere inedite, ognuna delle quali interpreta in modo diverso il tema Avere 20 anni, un'età tanto simbolica quanto concretissima mentre si studia. Hanno risposto con entusiasmo alla proposta artisti e artiste riconosciute da tempo a livello nazionale e internazionale, come Daniele Brolli, Andrea Bruno, Chiara Carrer, Onofrio Catacchio, Maya Celia, Sara Colaone, Caterina Coluccio, Gianluca Costantini, Otto Gabos, Adelchi Galloni, Lorenzo Ghetti, Gabriele Lamberti, Alessandro Micheli, Ottavia Monaco, Marino Neri, Salvo Palazzolo, Luigi Raffaeli, Stefano Ricci, Sergio Ruzier, Alessandro Sanna, Massimo Semerano e Vanna Vinci. Tutto questo inaugura appunto alle 17.30 di mercoledì all'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54 a Bologna. Non vorrei dire, la metà dei nomi che hai letto sono quelli del calendario, comunque. Sì, forse se in uno effetti, viene si riesce a fare un calendario, sì, o un super abbonamento a Radio Fujiko. Infatti. Dopodiché giovedì 14 novembre abbiamo ricevuto da pochissimo, da David Casini, che salutiamo, l'opening della mostra Like an Open Door. E il 14 novembre alle ore 17 alla Fondazione Yu Rusconi Ghigi, in via Petroni 9 a Bologna, abbiamo l'inaugurazione della mostra Like an Open Door, con opere di Alessandro Brighetti, Anya Corker, David Casini, Lorena Bucur, Marlene Hausegger, Mattia Payet e Veronica Hauer, visitabili fino al 9 febbraio 2025. Dopodiché alle 18 c'è la presentazione di della rassegna, c'è un'altra installazione, succede un sacco di altra roba che troverete tutto su coxospaziale.blogspot.com da domani. Venerdì 15 novembre, procedo alle ore 19.30, Squadro, inaugura The Gull Yeting, personale di Joe Kessler. In mostra ci saranno i disegni originali dell'omonimo libro, The Gull Yeting, in occasione di A Occhi Aperti Bologna, in collaborazione con Amelin Associazione Culturale. Tutto questo a Squadro, Stamperia d'Arte, in via Nazario Sauro 27, qui a Bologna. Sempre venerdì alle 18.30 invece abbiamo Bookmakers, che presenta la guida fumetti di Bologna di Marco Ficarra, 24 ore a Bologna, itinerari a fumetti per una giornata in città. L'idea della guida 24 ore a Bologna si inserisce nel progetto editoriale di 24 ore cultura, nato con l'obiettivo di realizzare un format di guide a fumetti che raccontino la città italiana attraverso percorsi tematici in una singola giornata. Dopo il successo di Milano, Roma, Firenze, Napoli e Venezia, Bologna è ora... la stella di questa originale collana. La presentazione del nostro la protagonista. Non so perché non è venuto, chissà. Perché ho copincolato da Facebook e Facebook è un disastro. Comunque, tutto questo, naturalmente, la presentazione a cura di Marco, del volume a cura di Marco Ficar, è al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53 a Bologna. Siamo a sabato 16 novembre, ore 12, Contemporary Museum Watching, le fotografie di Alex Trusty a cura di Luciano Bolzoni presso le collezioni comunali d'arte a Palazzo D'Accursio in Piazza Maggiore 6 a Bologna. Sempre sabato dalle ore 15 e anche domenica 17 novembre dalle ore 15 abbiamo Oltre, dialogo tra fotografia, territorio, comunità. Oltre è un ciclo di talk aperto al pubblico, invitato a confrontarsi con esperti, curatori e artisti, ideato e organizzato dall'associazione DAA. I relatori si confronteranno sul rapporto tra fotografia, comunità e territori, sull'importanza degli archivi, sul ruolo delle residenze d'artista e su alcuni progetti fotografici. Tutto questo ad ingresso gratuito nella Serra Amada dei Giardini Margherita in via Castiglione 134 a Bologna. Posso inserire volantemente, ma certo, una menzione speciale di quello di cui mi occupo, che è il teatro, sì. Perché questo giovedì e questo venerdì alla Sala Leo De Berardini, sell'Arena del Sole, va in scena Altri Libertini della compagnia Alicia la Nera, che, se per caso siete all'ascolto, non frequentate tanto il teatro, è una compagnia di teatro contemporaneo molto molto interessante, e direi che Altri Libertini, ispirato all'opera prima di Pier Vittorio Tondelli, mio grandissimo amore letterario e anche teatrale, penso che sia un esperimento interessante da andare a vedere drammaturgicamente come l'hanno trasformato. Olè, questo giovedì e venerdì, naturalmente su coxospaziale.blogspot.com da domani troverete tutti i dettagli di tutte queste menzioni, perché comunque il tempo stringe, sono le 20:52, abbiamo tempo per qualcos'altro, abbiamo il tempo per fare un'ulteriore domanda a Nemanja e salutarcelo, perché allora, i nostri amici di Panta 80 sono qua che scalpitano, sono qui da mezz'ora, non vedono l'ora di buttarci fuori. Posso farla io? La puoi fare tu. Mi chiedevo, mi ha dato un'infarinatura, una panoramica, non pretendo di avere carpito molto di un percorso artistico così di tale portata, che visto che state lavorando insieme con gli studenti dell'Accademia, mi chiedevo che tipo di lavoro propone un artista come Nemanja agli studenti? Dobbiamo spoilerare, magari c'è qualche studente che non si può. No, va benissimo, possiamo spoilerare. Vabbè, dico in generale, anche quello di Venezia. Sì, certo, dai. No, mi sembra giusto. Diciamo che lavoro con ognuno studente, uno a uno, a sviluppare i loro progetti. Mi trattengo a, non mi piace mostrare il mio lavoro ai studenti per non influenzare. Cerco veramente di essere sincero con loro ricerca, quindi mi piacciono, se qualcuno vuole fare lavori collettivi, invito i studenti anche di contribuire nella didattica, quindi c'era una studentessa che per 2 anni faceva, Eva Bisioli, che faceva un seminario che partiva proprio da lei in 5 puntate ogni bellissimo anno, quindi ecco, cerco di dare possibilità. No, in tutti. Effetti devo dire che da ex studente in accademia il rapporto più importante è quello con i compagni, perché è da lì che si cresce come artisti, per cui infatti penso che questa cosa continui a essere fondamentale anche in un periodo storico in cui ognuno più o meno si fa un po' i cazzi suoi, no? Però questo anche fuori dall'accademia. Sì, no, certo, certo, e continua a essere importante naturalmente il tipo di collaborazione. E ci sarà una restituzione del lavoro che state facendo con gli studenti? Ci sarà una restituzione, ma non lo possiamo spoilerare, ma non una restituzione pubblica in realtà, cioè sarà una restituzione privata all'interno del laboratorio cioè della scuola del biennio di grafica, per cui in cui neanche io posso infiltrarmi, infiltrare, ma diciamo che non ci sarà una restituzione pubblica. Perché in realtà il progetto che stiamo facendo è un progetto didattico, e dunque cioè la restituzione pubblica sarà quando gli artisti vorranno partorire Però bisogna dire che il gruppo di Stefano veramente sono bravissimi altissima qualità, e c'è speranza per il mondo, perché loro tra un po' usciranno fuori e faranno cultura. E faranno delle cultura. Cose. Sicuramente cultura. Non grazie a me, ma anzi grazie a Agim Sacco, che stasera ho tentato di trascinare in radio, ma non ci sono riuscito, ma prima o poi riuscirò ad avere. No, devo dire che in effetti Nemanja ha ragione, la scuola del biennio di grafica d'arte in questi ultimi 2 anni sta veramente facendo un ottimo lavoro. Bene, ahimè abbiamo finito, se finì il tempo, perché ma io vedo un 20:55. Tu vedi un 20:55, no, sei destra, ma se non finiamo alle 20:55 la pubblicità non parte in tempo, e non possiamo mettere la sigla finale, per cui io ringrazio tantissimo Nemanja Cvijanović. Mi raccomando, poi troverete su coxospaziale.blogspot.com un link che vi permetterà di andare a vedere questa famigerata stella rossa che si è eretta su un grattacielo di Rijeka. E naturalmente questo era Coxo Spaziale, io ero Giulia Quadrelli e io ero Stefano W. Pasquini. Grazie compagno. E grazie, come al solito vi salutiamo con le dolci parole del nostro direttore di radio, che ci saluta così: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. まるで人が持つ心の記憶夢と希望が光を差し終わりのないストーリー夢と希望が光と差し終わりのない物語じゃり砂漠に広がる摩天楼旅立つ男彼は風来坊星の光が導くように心の細部輝きを求め目指す場所は心の内側癒しと愛が世界を包み込む 一人一人が輝き放ち絆育むそれがマジックタッチ過去の痛みも未来の恐れも今日も笑顔で吹き飛ばす友と歩み友と語り友と喜びを悲しみ分かち合い終わりなき旅は続く迷いながらも道へと前進自分自身と向き合いながら生命の輝きを感じる 星たち人が持つ心の記憶じゃり夢と希望が光を差し終わりのない物語じゃり出会いと別れ時の流れ旅人たちは心を通わせよ 広がる大地広がる想像と立ちと問題を問いただす旅人の言葉深く響く自問自答迷い抱えていく夜の